Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Hai visto questo titolo? Cos'è? Aki Kaurismaki, ma sì. Cos'è? Ma che lingua è? Sushi? Ma leggi, no? Ma è sushi. Sushi. Sushi. Il maki è... No, è vero, però Aki continua a leggere. Aki Kaurismaki Show Akan. Sì. Due punti, virgolette aperte. Il 3D, roba da uomini ancora bambini. Oh, ed è quello che dicevamo noi 6 mesi fa qui a Chiedo Asilo. E adesso lo dice niente meno che Aki Kaurismaki. Ah, beh. Come, ma sai che almeno chi è Aki Kaurismaki? È un giapponese che guida la Kawasaki. Sì, e mangia il maki. Vedi che Tito capisce. Dai, ma cosa? Ma, bro, cioè, vabbè, Aki Kaurismaki è il regista finlandese. Dai, gli avrai visti i suoi film, sì, Leningrad, sì. Cowboys o sì, Affittato, sì. Un killer. Vabbè, ma è roba di 20 anni fa. Lo so, così. Ma si chiamava così, Aki Kaurismaki? Sì, Aki Kaurismaki. Vabbè, quindi tornando a bomba, il nostro amico Aki dice che il 3D al cinema è una cosa da adulti rimasti bambini. Sì, e ha fatto molto scalpore questa dichiarazione di scetticismo. Molto scalpore. Che scetticismo è un eufemismo in questo caso. Sul 3D, e visto che le major stanno spendendo milioni di dollari nella tecnologia del 3D, questa sconfessione ha subito fatto il giro del mondo. Sì, vabbè, tutti hanno cominciato a dare di gomito. 3D è roba da, insomma, è roba da niente. Sì. Guarda che a Cannes quest'anno ha fatto tutti dichiarazioni di quelle boom boom, eh? I really wanted to be a Jew and then I found out that I was really a Nazi, you know, because my family was German, Hartmann. Questo è Aki Kaurismaki, non ho capito. No, ma vedi, questo non è finlandese, questo è danese. Che parla inglese. Bravo, è Lars von Trier, questo. Figura da pirla del mese. Fa anche rima. Sì, la polemica anche in questo caso è nota. Noi andiamo solo a sintetizzare i 2 o 3 punti che hanno caratterizzato questa figura da pirla. Alla conferenza stampa in cui si parlava del suo ultimo film Melancolia, che è il solito polpettone melodrammatico. Che l'hai visto tu? No. E allora? Beh, ma ho letto la trama ed è il solito polpettone melodrammatico con velleità fantascientifiche tipo La fine del mondo, molto originale. Il pianeta Melancolia che arriva e distrugge la Terra, queste cose qui. Comunque non è quello il punto, infatti, capo. Il punto sono le dichiarazioni di Pierino La Peste e Lars von Trier che ha detto delle cose senza senso su Hitler, ebrei, Israele, e poi la regista Susan Bier, e poi li ha messi tutti insieme in un secchio, ci ha messo sulle uova. I punti imbarazzanti della conferenza stampa sono la frase "io capisco Hitler", "I understand Hitler", poi la frase in cui dice "io sono pro ebrei ma non troppo perché comunque lo Stato di Israele è un rompicoglioni", "because Israel is a pain in the ass", e poi il riferimento alla sua collega Susan Bier quando dice che su via io non sono per la seconda guerra mondiale, non sono contro gli ebrei. Beh, insomma, Susan Bier. Ehi, sto scherzando, eh. But come on, I'm not for the Second World War. And I'm not against Jews, Susanna Bier. No, not even Susanna Bier. That was also a joke. Vabbè, diciamo che la figura da pirla del mese forse non basta, per Lars von Trier. No. Dai, dobbiamo direttamente assegnargli la figura da pirla dell'anno. Forse anche del secolo. Vabbè, insomma, non esageriamo, siamo appena all'inizio del secolo. Un bel applauso dalla clac più sindacalizzata del mondo. No, infatti niente clac. Cosa? Perché sono di nuovo in sciopero. Ancora? Sì, volevano l'Empals in qualità di figuranti, io gli ho risposto di no, ma scusa. No. Ma come l'Empals? No. Vabbè, allora glielo facciamo noi, l'applauso a Lars von Trier, e poi semmai fatturiamo come consulenza. Come consulenza, va bene. Allora, autore Lars von Trier della figura da pirla del 2011. Bravo, grazie, bravo. Però il premio vale fino al 31 dicembre, Ah, è già suo. Adesso, sì. Sì, dai, anche se domani arriva Sgarbi oppure che ne so quell'altro, Vulpio. Sì, che dice una marea di stronzate sull'eolico, no, una cosa peggio di quella di Lars von Trier. Quindi la figura dell'anno rimane assegnata a Lars von Trier, diciamo di sì. Però sai una cosa? Cosa? Io comunque devo dire che io... Cosa c'è? Io Lars von Trier lo capisco. Ma cosa capisci? Sì, I understand Lars von Trier. Ma quindi capisci anche Hitler? Ma no, ma dai, ascolta, se può capitare a tutti di iniziare una frase in modo infelice, no? Ma sì, ma... D'accordo che I understand Hitler è il peggior modo possibile in cui puoi iniziare una frase. Però è anche vero che una volta che sei lì, in conferenza stampa, a Cannes, tutte le TV, i giornalisti, eccetera, ormai l'hai detta, non è che... Cos'è che puoi fare? Ma come? Ma sei impazzito? Ma fingi un malore? dici sto male, la dermatite, sospendi la conferenza stampa. Ma insomma, sei un regista famoso, dai, ma non puoi farti venire in mettere un'idea, un plot, un twist del plot. Per uscire sano dalla conferenza stampa. No, lui ha continuato a parlare, è andato a tirar fuori anche Israele, che non c'entrava proprio niente, quindi si è impelagato. Poi Susan Beer, insomma, si è scavato la fossa, perché ormai lui è marchiato. Sì, come l'adultera della lettera scarlata. Come un ebreo ai campi di sterminio, insomma. Ma chi di Führer ferisce? Che poi il nazismo, comunque, alla fine. No, Drago, cosa stai per dire? No. Devi stare attento a come inizi le frasi. Ma no! Volevo solo dire che il nazismo tira. Ma cosa tira? Sì, sta per essere lanciato sul mercato la bambolina di Adolfo il dittatore, una bambolina parlante che raffigura Hitler e con la quale si può imparare la storia. Abbiamo lo spot in esclusiva. E ricordate, we understand Lars von Trier. No, tu understand Lars von Trier, io... Dai, tu impara da Adolfo il dittatore, va. Bambolina di Adolfo il dittatore, i vostri bimbi potranno imparare la storia giocando. Non sprecate tempo e denaro in inutili lezioni private. Con Adolfo il dittatore, i vostri figli entreranno in contatto con uno dei più straordinari personaggi storici di tutti i tempi. La bambolina è maneggevole e sicura, realistica e snodata. Potete ordinarla in varie versioni. Adolfo con la t-shirt, Arbeit macht frei, Adolfo con la dolce vita, Gott mit uns, e Adolfo in un originale costume da bagno disegnato da Leni Riefenstahl. Non private i vostri bimbi del piacere di imparare la storia giocando. Comprate loro Adolfo il dittatore. Vicino a Viterbo, ad Acqua Pendente, è stato recentemente riconfermato il sindaco di centrosinistra. Acqua Pendente. Chi se ne frega? Un ridente villaggio vicino a Viterbo. Chi se ne frega? Noi deve fregare, perché il sindaco in questione si chiama Bambini Alberto. Ah, ma è così un omonimo. Un omonimo. Fantastico. Cioè, Alberto Bambini, che se mettiamo prima il cognome diventa Bambini Alberto, è ufficialmente il nostro sindaco preferito. Sì, sì. Niente applauso, perché purtroppo la claque è in sciopero, ma un abbraccio ideale, forte, forte, al sindaco dei bambini, Alberto Bambini, alias Bambini Alberto. Allora, vogliamo parlare di Lapo Elkan? Guarda, no, qui. Grazie. No. Perché? Ma rompi sempre già con Marchione, adesso vai sulle seconde cosa linee. Cosa c'entra Lapo con Marchione? Vedi come sei superficiale. Ma è la Fiat. Sì, no? Ma Lapo non sta più nella Fiat, lui sta solo nelle felpe Fiat. Ah. Cioè, ma solo le felpe. Gli hanno assegnato il settore felpe, cioè l'indossamento delle felpe. Lui si occupa di tutt'altro, cioè si occupa delle felpe, ma vabbè, e poi di altre cose oltre alle felpe. Giovane, insomma. Cioè, tutto però fuori dalla Fiat. Lui fa gli oggetti. Tipo. Ma scusa, uno c'ha il maglioncino, lui fa le felpe. No? Ho capito. Per quello. Sono, vabbè. Comunque lui con la Fiat fa, proprio... a parte le felpe. Gli oggetti, lui fa degli oggetti belli. Ma che tipo di oggetti? Ma cosa c'entra che tipo di oggetti, K? Degli oggetti, no? Lui si alza al mattino e vede una lametta da barba, magari, no? Sì. No, così. Non se la fa la barba, vede un'altra cosa. Vabbè, la vede, perché non deve vederla? Perché non ce le ha, lui c'ha la barba postata. Ma come postata, no? Cioè, ma la lametta da barba magari dozzinale, quella di plastica blu, lui la vede. Sì. E si incanta a guardarla e si lascia incantare. Quindi cosa dice? Gli viene in mente di fare una lametta da barba bellissima. Lui studia il design, i materiali, chiama i migliori artigiani, spende una barca di soldi e realizza il prototipo della lametta da barba più cara del mondo, hai capito? Poi gli mette il marchio Italia Independent ed è tutto a posto. Un'altra mattina, che ne so, vede un paracarro per strada e si mette a fare il paracarro più caro del mondo e via così. Ma chi li vende il paracarro? E li vende, a chi vende ste cose? Ma li vende a chi ha gusto, no? A chi è fuori dagli schemi, a chi esprime la sua personalità in modo autonomo, appunto independent. Ma comunque così parla, no? Ma io comunque volevo parlare di Lapo per via della sua casa di Milano, che lui ha una casa a Milano, ticinese. Sì. Questo articolo bellissimo. Dove è andato a finire? Eccolo qui. Ecco. Una casa di ringhiera vecchia a Milano, e dentro vedi è piena di giocattoli, guarda le foto, guarda, carta canta, Bellissimo, guarda. Chi sono questi? Questi barba papà all'ingresso, ci sono tutti barba papà. Infanzia. Mickey Mouse, Betty Boop. Poi è pieno di divani fatti a forma di 500. Eh sì, la 500 è un po' la sua ossessione. Poi c'è questa hawaiana, una bambola che praticamente è a grandezza naturale. Ah, sì, sì, vedo con la gonnellina di paglia. Sì, sì. No, ma scusa un attimo, questa qua non è una bambola, è vera questa. Vera, sì, certo, certo. Bella casa però, no? Ci torni dopo una giornata di duro lavoro passata a costruire, a disegnare, a immaginare un paracarro. Deve essere divertente, insomma, entri. Sì, se non altro per via della hawaiana. Tito! Tito, bravo, c'è anche se no, lui. Sai che Lapo dice che in camera da letto lui ha la foto di Kissinger. Io non so, ma come sarà a fare l'amore sotto la foto di Kissinger? Ma con la hawaiana? Sì, facciamo un po' di Hawaii in onore di Lapo Elkan e della sua bellissima hawaiana che lo aspetta in casa tutte le sere, anticinese, in mezzo a Mickey Mouse, a Barba Papà e a tutti i suoi giocattolini. Un saluto a tutti voi e scriveteci a chiedoasilo@radio24.it. Ci risentiamo domani.